Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Noise. Loro sono i The Floor, li abbiamo ascoltati perché gruppo italiano, duo industrial, perché martedì apriranno il concerto degli Unsane a Roma, Unsane che suonano questa sera a Bologna. Penultima puntata e chiaramente si chiude con un certo stile, quindi ospiti in studio questa sera, come preannunciato sul blog, come preannunciato. Allora, ospiti in studio, o ospite perché è da solo, in realtà sono in tre però è rimasto da solo, ospite in studio Flavio delle Cose Perse, il coso perso, e poi molto pornografica e poi Danny Everything. Sono venuti a trovarci e sono timidi e quindi non vogliono salutare neanche addirittura. No. Ciao. A tutt'asterisco. A tutt'asterisco. No, ciao a tutti. Ok, per me la serata è aperta con discussione sull'uso dell'asterisco davanti a il tut e qualunque altro aggettivo. Sì, si potrebbe discutere. Rischiamo di far chiudere una radio con questo discorso, Probabilmente sì, probabilmente il rischio è molto molto forte. Vabbè, insomma, in questa serata parleremo di un po' di cose, c'era scritto anche sul flyer, dei 15 desideri e del do it yourself. Hai fatto un flyer fantastico. Il flyer è opera di non mia. Non mia, è stato veramente bravo. Spat Design. Spat Design dovrebbe farci flyer dei nostri concerti. Sì. A gratis, possibile. Ah, che è là il problema. Che peccato, ma abbiamo 35 centesimi attualmente da parte. Vabbè, magari con 35 centesimi, che ne sai, fanno un sacco di cose in realtà. Funziona. Allora, quindi noi parleremo un po'. Io prima di parlare seriamente per. E poi chiaramente, insomma, ancora siamo a gola un po' secca, quindi bisogna, qui si passano il microfono non sapendo che fare, che dire. C'è la terza e ultima Deny Everything, devi ancora salutare il pubblico. Ciao a tutti. Ecco, allora ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche le donne qui e ne abbiamo due, non una, guardate la prova. Ciao a tutti. Eccolo qua. Non siamo solo maschi. No, non siamo solo. Ci vuole anche una componente. Se no non potevate fare la discussione sull'asterisco. Giusto. Discussione che non abbiamo fatto ancora, ma la faremo. Però la è faremo, a rischio. È a rischio, ma la faremo. Vabbè, DJ mi manda delle occhiatacce. Peraltro, nell'ultima trasmissione in cui io sono venuto, cioè un anno fa, tu non ti volevi far chiamare per nome, uguale, ok? Uguale. Eri il re. Chi se lo ricorda. Sì, adesso me lo ricordo, però non posso dirlo perché era un gioco col tuo nome. Ah, ok. Lo dico durante la musica. RadioNoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, RadioNoise Webcast, profilo su Facebook. Visto che si parla di questioni italiane, la playlist è italiana stasera. E diciamo che dopo avremo anche un'italianissima. Vai, sì, perché io poi la dimentico. La presentano loro, visto che... Aiutatemi perché io poi dimentico. Sì, dopo avremo un collegamento Alda Teodorani, l'autrice di 15 desideri, e parleremo, sì, scrittrice, in realtà, ecco, io mi sento forse un po' in imbarazzo a presentarla perché, cioè, insomma, diciamo una scrittrice che si presenta da sé, e dopo parleremo insieme di questo progetto che abbiamo fatto insieme, un libro CD che ha coinvolto 15 gruppi che hanno musicato suoi 15 racconti e che sono stati anche illustrati da 15 illustratori, diciamo underground, dai, passatemi il termine. Passiamo. E poi niente, coprodotto secondo la migliore tradizione DIY italiana da 19 etichette, noi compresi, italiani, che ho preso Radio Riot, e se tutto va bene, insomma, un po' di amici ci daranno una mano anche fuori dall'Italia. Abbiamo sottolineato Radio Riot perché il sottoscritto di Cose Perse era il cofondatore di... Sì, ha sottolineato. È stata l'ultima coproduzione. Ha sottolineato indicando, chiaramente sì, non possono vederlo. Possiamo vederlo, però. sino quasi a, è stata l'ultima coproduzione, mettiamo in continuazione, facciamo, mettiamo carne al fuoco. Non è che si vergognava di fare la presentazione. No, io sembri come si chiamava quello che faceva mi vendo questo coltello a 19 euro addirittura. Il baffone, il baffo, baffo. No, io ero più per Chef Tony, anche se doppiato fuori sincrono era decisamente migliore. Non, o al massimo Shogun, il baffo no dai. Cazzo Shogun, tu hai i coltelli Shogun per io ho i coltelli a casa. Shogun a casa, sì sì, però non il Miracle Blade ancora. Non il Miracle Blade, io quando ero piccolo telefonavo durante la pubblicità, mi rispondevano e dicevo evviva i coltelli Shogun e attaccavo. Grande. E dopo questa non toccate Miranda. Siamo tornati in onda, abbiamo ascoltato Non toccate Miranda, un gruppo che si è riformato da poco. Davvero? Sì. Hanno fatto anche un concerto, se non sbaglio, l'estate scorsa in Puglia, mi sembra, Rhodes Fest, se non sbaglio. Insomma, un gruppo che va seguito. Questo è stato il loro album d'esordio, che poi invece li ha portati a sciogliersi. Tutti gli album d'esordio. Sì, bellissimo. Secondo tutti i belli album d'esordio. L'energia che si era sprecata qui, chiaramente poi non ce l'hanno fatta più. Ma io notavo come una cifra di gruppi fanno tuttora dei dischi da paura, non necessariamente d'esordio, e poi si sciogliono. Vedi PHP, vedi belli cosi, vedi Mac 5, poi sono rimasto indietro, però magari ce ne sono altri che ancora non si sono sciolti. Vedi gli Ozo, vedi Noinfo. Noinfo da Torino, il secondo. Sì, molto carino anche quello. Allora, insomma, noi iniziamo a parlare un po' seriamente. Io vi lascio in realtà liberi da dove volete partire, perché c'è da discutere su un po' di cose, sia di questo lavoro a cui Le Cose Perse hanno partecipato, che poi chiaramente si intreccia ovviamente con il discorso di It Yourself, Danny Everything. Vabbè, ma di quello ce lo teniamo per dopo, così insieme ad Alda ce lo esploriamo. Allora, parliamo un poco quindi delle cose perse. Tu che sei esponente. Io che espongo. Siete già stati qui ospiti l'anno scorso. Io te lo dico perché chiaramente so che cosa è stato fino all'anno scorso, e ti chiedo se è cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso. Allora, innanzitutto il chitarrista sta per partorire. Cioè, non lui in prima persona, ovviamente, ma chiaramente. Ma la moglie, ma quei tempi che corrono non si sa mai. Un bambino specifico, anzi una bambina, un'Alice. E quindi questo è già un bel cambiamento. Sì, un'Alice no, nel senso di un'acciuga, ma una bambina che verrà chiamata col nome di un'acciuga. E questo è un cambiamento. Un altro cambiamento è che il nostro batterista ha ripreso ad andare a donne. Questo è anche importante, perché insomma è una cosa da non sottovalutare. E per il resto in realtà siamo un pochino rallentati a livello di concerti, però ci sono buone cose a livello di pezzi, che proprio la settimana scorsa abbiamo, dopo 9 anni da Pappagalli Verdi, abbiamo ritirato fuori un pezzo, o meglio abbiamo creato un pezzo in studio. Solitamente ero io che portavo un pezzo in studio e poi ci si lavorava, invece abbiamo creato ex novo in studio, e quindi è una cosa molto carina. Glam, che non so cosa cazzo c'entri con Le Cose Perse, però poi ovviamente dobbiamo lavorarci. E quindi da quel punto di vista è una cosa buona. Ci sarebbe piaciuto andare a registrare per entro l'anno, in modo da far uscire un disco quest'anno, che è il 10° anniversario delle Cose Perse. Perché poi l'ultimo disco è uscito nel 2009. Nel 2009, esattamente. Però non sta proverbiale lentezza, prima di 2 anni e mezzo abbondanti non riusciamo a far uscire un disco. Vabbè, vuol dire che è fatto con passione, ci fatto col cuore, è fatto col cuore, ci pensate veramente tanto. Sì, guarda la cifra, è vergognoso, sono 2 anni che portiamo avanti, no beh, gli stessi pezzi no, però in 2 anni ne abbiamo scritti 5. Quindi è vergognoso, però siamo lenti, questo veramente tanto lenti, però ci piace la nostra lentezza. Questo vuol dire che non faremo mai un disco da paura, che implicherà uno scioglimento. Parlo sempre di dischi di merda che vi dovrete sorbire da qui all'eternità, probabilmente, perché continueremo a suonare. No, stanno venendo fuori molte cose buone. E poi è vergognoso anche il fatto che ve l'abbiamo fatta sentire lo scorso anno, e stasera vi risuoniamo le stesse cose dello scorso anno. E magari ascoltiamo quella, perché io l'ho appena messa una dell'ultimo disco, così adesso ce l'ascoltiamo. No, vi risentirete, no. Sì, no, vi sentirete una dell'ultimo disco, ma vi sentirete gli inediti che vi abbiamo fatto sentire lo scorso anno a Radio Noiz. Vabbè, tra l'altro suonati male, perché li sono io, non c'è Andrea stasera. Vabbè, però sai, quelli dell'anno scorso magari non sono gli stessi ascoltatori giusto, di quest'anno. Giusto. Quindi ecco, questo ti sei bruciato. Cosa mi sono bruciato? Io cerco di buttarmi giù, invece queste persone continuano ad elogiarci. D'altronde, se sono 10 anni che suoniamo, un motivo ci sarà. Beh, appunto. Le nostre milioni di fan uomini. Sì, lo dico in maniera del tutto disinteressata, sì, non perché qui ci sia la mia ragazza. No, assolutamente, ma perché mai, assolutamente. E, no, beh, a parte questo, poi Andrea anche ha iniziato a suonare in un altro gruppo che sono i Santa Fe Porno Rockers, che fanno questo genere che va molto adesso e che è, lo, che è il porno. Che è il porno, non è il rock, ma è il porno. Il porno. E no, lo Psycho Billy, insomma, abbiamo visto che Rockabilly, Psycho Billy e Company stanno andando parecchio adesso. Sì. Allora, loro vanno sull'onda. Noi ascoltiamo quindi un pezzo del vostro ultimo disco e si chiama Gente che ne sa, loro sono le cose perse. Allora, stavamo discutendo intanto sulla pronuncia di questa della distro, etichetta, banchetto. Dini, everything. Sì, no, noi la chiamiamo direttamente la distro per ridare. Acceso. Acceso? Non no. Ci sente? Non passa si sente il microfono, okay. Velocemente. Grazie, ok, ecco. No, dicevo, noi semplicemente la chiamiamo la distro per evitare di tira fuori la solita pronuncia inglese nostra un po' barbina, e quindi è giusto, no, non lo so, non mi sono un attimo distratto, cercavo di seguire un attimo il nostro microfono che a forza di bastarcelo per tenere alto il livello del silenzio se probabilmente non so, forse è caldo, è andato, dai. Vai, quindi stavi dicendo. No, niente, no, quindi no, la pronuncia io forse sono meno indicato a dirla. Però beh, non è necessario nemmeno. Tanto pure su tutte quante le coproduzioni che abbiamo fatto il nome è stato scritto male, perciò. Tranne che nel disco delle cose perse. Tranne che nel disco delle cose perse, insomma, forse giusto lì era scritto bene. Infatti, come mai lì era scritto bene? E sostanzialmente noi cose perse cantiamo in italiano, quindi cantando in italiano sappiamo l'inglese e quindi abbiamo riuscito a scrivere bene il vostro nome. Va bene, intanto sto per l'altro è inquietante che loro tre dei Deny Everything guardano tutti me, non capisco perché. Non ti sentono perché abbiamo un solo microfono, quindi dobbiamo fare questo passaggio un po' come a teatro, che uno dice la battuta e poi l'altro. Se stai parlando è normale che guardiamo te. Vabbè, ma parte Deny Everything, che è così che si pronuncia. Parliamo della canzone delle cose perse. Sì, gente che ne sa, perché stiamo discutendo di questo. Di questo pezzo, lanciagli il microfono. Sì, gente che ne sa, che si pronuncia gente che ne sa. E, anche in inglese. E, come si pronuncia? Ma sentito un inglese, penso in inglese massimo dica Gent che ne sa o qualcosa di simile. Questo sembrava più Papa Ratzinger. E, che ci devo fare con questo altro microfono? Con il gelato. E, devo parlare di gente che ne sa. Gente che ne sa. Ok, dovrebbe. Era una... panico passato. Ah, ok. E era un pezzo che è nato per un pezzo che parlava della scena, nato un po' per, come dire, era la risposta che le cose perse davano a se stesse, nel senso che era complementare a voi che si trova nel disco precedente, mentre sì, voi era una critica alla scena. Gente che ne sa era un ringraziamento, anche se dentro poi ci sono critiche, a tutta una serie di persone. Non potevamo includere tutte le persone che volevamo ringraziare, ma ne abbiamo messe qualcuno in quel pezzo dove si ringraziano. I BDD, famoso gruppo di Roma. Dal 78. Dal 78 al 2014, presenti su, sulla scena nei nostri cuori. E poi qualche altro gruppo. In realtà quello è un pezzo che mi era stato ispirato da gruppi rap, in particolare da Neffa, Chaos e simili, che facevano queste, queste canzoni dove citavano tutta una serie di compagni, di colleghi in musica. Per esempio c'era Chaos in Per la vita, diceva Ciccio per la vita, Caio per la vita, Sempronio per la vita e così via. E quindi lì abbiamo ripreso e la cosa carina è che cambiavamo in ogni concerto il nome dei gruppi. Quindi vuol dire che avete un sacco di amici. Guarda, tantissimi, guarda, se voi sono su Facebook i 600 tutti amici nostri. Ogni giorno ci prendiamo un aperitivo con 600 persone al baretto e... Al barone, sì, aperitivo vegano naturalmente. Quindi la questione Facebook che esce fuori è un falso fondamentalmente. Facebook è un falso. È un falso d'autore probabilmente. Facebook è un mezzo, va usato come tale, quindi tipo non come quella stronza che stavo dicendo prima a lei, ma mi ha messo questi cazzo di giochi che come si chiamano? Tizio ha risposto a una domanda su di te e 20 cose in bacheca, tizio che cazzo clicca qui per... Peraltro è molto interessante, mi spiegava il mio chitarrista, perché io non gioco a questi giochi, il mio chitarrista mi spiegava come ci sono domande inutili come... Pensi che ha una bella voce, pensi che ha begli occhi, pensi che si butta dal balcone quando sono le 7 di sera e poi pensi che si fa le canne. È terribile. Sì, è terribile. A parte queste cose, togliamole. Facebook è un mezzo, ho usato un mezzo pubblicitario fondamentalmente. Usiamolo per questo. Poi io per esempio sul mio non ci metto foto mie perché la mia logica è quando qualcuno viene a casa mia nella mia camera, io non gli apro l'album di fotografie e gli faccio vedere tutte le foto mie. Giusto. Ok, insomma, lo faccio solo con i miei migliori nemici, una palla simile di fargli vedere 450 foto, non vedo perché dovrei farlo a tutti i miei amici. E quindi sostanzialmente ecco, lo uso in questo modo. Però ecco, come cose perse lo usiamo perché è molto più economico di andare a mettere in giro i flyer per Roma. Però è sbagliato. Perché non si vedono più in giro i flyer? Sì, secondo me è una grande cazzata. Però usare solo Facebook è sbagliato. Proprio come sistema pubblicitario non funziona da solo. Secondo me non si vedono più i flyer in giro per Roma perché la gente non c'ha più voglia di fare un cazzo. Però questo me lo dite meglio voi perché io sì, sono infatti, ne parleremo dopo. 21 e 58 minuti sempre in ascolto di Radio Noise, ospiti Deny Everything. Perfetto, pronuncia perfetta. E cose perse. Aspetta, è cose perse. La C cose perse. Cose perse. Cose. E tu sai che calabrese non ti riesce. Imparerò strada. Cose perse. No, cose perse. No, niente. È la cappa degli Schiantos quella che. Mi sa di sì. D'oggi ci chiamiamo cose perse con la cappa. È più bello, vedi? Con la cappa e con la X, cose perse. E dopo questa, Cast Thy Eyes. mi hanno detto di dire che questo è un pezzo che suona più o meno così. Oggi ho deciso che vivere è prendere, mai dare. Il mondo è mio e mi deve pagare. Chiedimi perché non risponderò. Chiedimi perché non risponderò. Ma non possiamo tornare ai sogni di una volta. Non possiamo tornarci più. È il corpo che controlla l'anima, o è il contrario, non ricordo. Solo tu quel ponte ci incontrammo, e anche se con la brano se finimmo, non è più come i vecchi giorni, non è più come allora. Mi chiedo se sto male ancora. Applauso glielo fa. Vicino al microfono, se no. Vicino al microfono, se no non si sente. Beh, e allora, mentre si sistema la chitarra, noi io faccio qualche domanda a voi, visto che parlavamo di flyer, quindi di sbattimenti fisici proprio per mandare avanti un qualcosa. Com'è, che significa avere un'etichetta? Innanzitutto, che significa avere una distro? Ma guarda, noi in realtà siamo abbastanza atipici, perché in realtà, vabbè, ok, non traffichiamo molto coi flyer, però la carta è uno dei nostri mezzi proprio fisici di riferimento, perché fondamentalmente siamo una distro di fanzine. Più o meno stiamo in giro come distro dal 2005, quando insomma dopo tipo almeno 3-4 anni dei concerti appunto siamo cresciuti con le varie fanzine, cercando di rimediarle in giro. Abbiamo visto che non c'era in realtà un punto di raccolta di tutto quanto sto materiale, quindi secondo la logica tipica punk del voglio fare sta cosa, non c'è, non lo so fare, fa niente, lo faccio, e noi abbiamo detto benissimo, lo facciamo. E quindi diciamo, quello che abbiamo iniziato a fare noi semplicemente è stato cercare di prendere quanto più contatti possibili con le persone che si sbattevano a loro volta per fare delle fanzine, e semplicemente dirgli guarda, cerchiamo di darti una mano a portarle in giro a concerti e roba simile. Poi in realtà ci siamo fatti un po' prendere la mano, perché a un certo punto, a forza di sentire insomma che c'erano dei gruppi che ci piacevano davvero tanto, abbiamo detto cavolo, diamo una mano pure a loro, facciamo una micro etichetta, e quindi niente, da lì è partita la questione anche dei dischi. Poi ci siamo, abbiamo cercato di buttarci un po' sui video, cioè abbiamo due o tre progetti abortiti video. Uno è andato invece, insomma, in porto, è finito. Abbiamo fatto questo DVD dei PHP che prima erano già stati citati da Flavio. E adesso c'è questo grosso progetto, grosso, insomma, magari ecco, è sempre un CD, quindi CD più un libro, fisicamente non è molto grosso, però per noi come impegno però, sì, insomma, è importante questo progetto 15 desideri, che insomma ci ha impegnato per 8 mesi e che insomma adesso che è finito riusciamo a parlarne molto bene, ma ci abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, di puro panico, proprio perché insomma l'approccio di DIY, do it yourself, insomma, che non è quello lavorativo, nessuno di noi fa questo per lavoro, ci ha portato, cioè situazioni, tanto per fare un esempio, magari ti svegli la mattina e trovi 30 mail a cui rispondere e quindi magari ti prende un attimo il panico. Giustamente. Però no, niente, invece un'etichetta punk, una distro punk, significa semplicemente continuare a frequentare i concerti punk, un certo tipo di iniziative, e portarsi dietro chili e chili di carta, e lì ti accorgi quanto è il valore, il peso specifico della carta. E niente, insomma, in realtà non lo so, per noi ci sembrano cose abbastanza scontate, avremmo cercato di non rientrare nella un certo tipo di magari di roba che può sembrare retorica, però no vabbè, lo dico magari per chi ascolta non è molto inserito in cose del genere, quindi anche spiegare, capisco benissimo la difficoltà l'imbarazzo quasi nello spiegare, perché si è abituati chiaramente, vivendo in un tipo di movimento, si è abituato a dare per scontato certe cose, chiaramente. Beh, chi c'è dentro lo sa, chi non sta dentro, insomma, quello che facciamo è un segreto, no? La famosa citazione, cioè, nel senso, alla fine in realtà si tratta di trafficare con CD, fanzine, pezzi di carta e qualunque altra roba ti viene in mente, sentirti la musica che ti piace, insomma, è una bella cosa, è abbastanza gratificante. Sì, forse poi siamo una distro un po' atipica, perché in realtà non è che abbiamo solo fanzine, le solite, insomma, che si vedono in giro. Abbiamo anche fumetti, riviste di letteratura, di poesia, che naturalmente nessuno prende mai, perché tutti ignoranti come capre. No, vabbè. Avete scelto la nazione giusta. Pensa che nemmeno noi l'avremmo mai. Infatti. Avete scelto la nazione giusta, dicono. Guarda, una volta, insomma, forse volevano offenderci, ci hanno detto che eravamo intellettuali durante un concerto. Si è avvicinato uno e ci ha detto: guarda, questi sono intellettuali. Quindi no, perché è bellissimo, perché il 20 pagine fotocopiato con interviste hardcore, report e roba del genere, insomma, bello, no? Sono cose che comunque alla fine, cioè, noi ci fanno ammazzare da ride. Più ci stanno questo tipo di problemi e più appunto è divertente, vuol dire anche che c'è il conflitto interno, no? Sì, certo. Interno lordo proprio, quindi bello. Scusa, non ti ho interrotto, devi passare. Poi ultimamente c'è anche venuta la bellissima idea di fare un archivio di tutte le fanzine che riusciamo a trovare, cioè salviamo un numero di ogni fanzine, anche la più crausa. Vabbè, no, nel senso, vabbè, anche le più quelle di due fogli, cose simili, dai, non volevo dire proprio così. E cerchiamo di recuperare anche quelle, che ne so, degli anni 90, che ancora riusciamo a trovare in giro, da vari personaggi come Roberto, che ci ha dato le sue, quelle che faceva, oppure anche Paolo Petralia, che ci ha... Quindi avete, nel vostro archivio avete anche il numero zero del diario punk di Peter. Certo. Non era quello che intendevo per scusa. Quelli non sono neanche due pagine, quindi... No, il diario punk di Peter, ma anche il fumetto che avevi fatto sempre tu. Il fumetto di DIY su fumetti alternativi, il numero 0, il numero 1 di fumetti alternativi. Sì, abbiamo tantissime cose. Ho in cantiere anche il fumetto del numero 7. Sì. Attenzione, questo è uno scoop. Sì, devo fare soltanto i fumetti, cioè mancano i testi. Che va avanti per numeri dispari e primi, naturalmente, se no non... No, perché potrebbe essere una bella idea, ma manca il numero 2 e il 3 anche, quindi no. Manca il 3, pensavo che si fatto 1, 3... Ma c'è anche il 5, 2, è vero. No, 5, sì, 5 e il 2 anche. È vero. Quindi è vero. No, va avanti per impazzimento globale, che la gente che naturalmente è molto interessata al fumetto, dice: ah, ma io voglio reperire gli altri numeri, invece non c'è. Se vi volete basta che mandate un'email a spam@hotmail.com, sicuramente vi risponderò. No, ma tanto guarda, noi ne avremmo date via almeno 200 copie, nel senso che ogni abbiamo questo, sì, questo bel vizio che ogni volta che qualcuno malauguratamente ci fa un ordine, noi filiamo dentro una copia del diario Punk di Peter, ma... di fumetti alternativi e di altre fanzine che pesano poco. Ok, e che stampate voi, immagino. E che fotocopiate. Ok, la che cazzo ci faccio con quelle 500 copie che ho nel mio cassetto? Ah, beh, venite a casa mia e prendete. Buono sapesse allora. Allora, 22 12 minuti. Siete sempre in ascolto di Radio Noise, conflitti interni tra esponenti di varie fazioni. Noi ci stiamo avvicinando al momento dell'intervista con l'autrice dell'opera. Sì, Alda Dorani, e poi vabbè, magari naturalmente parliamo più nello specifico con lei, però insomma questo progetto magari, ne so, lo introduciamo un momento. Noi la conosciamo Alda da un po' di tempo, e quando ci ha proposto insomma questa idea che lei aveva già in mente tempo fa, perché 15 desideri è già stato stampato in realtà da Dario Flaccovio editore, una casa editrice siciliana, diversi anni fa era già stata musicata, però da un autore soltanto. Recentemente Alda era tornata in possesso dei suoi racconti, e quando insomma ci ha proposto di provare a ristamparli come autoproduzione, noi naturalmente siamo proprio partiti a manetta, abbiamo detto da paura, coinvolgiamo quante più persone possibile, perché al di là poi del discorso diciamo artistico creativo, che secondo noi, cioè noi ecco diciamo non parliamo d'Alda perché altrimenti diremmo è la migliore scrittrice italiana, cioè tutte cose estremamente di parte, altrimenti insomma non staremo qui a parlare di questa cosa. Però ecco, dicevo, al di là del fatto che ci piace tantissimo quello che lei ha fatto dall'inizio dei suoi racconti, romanzi fino a oggi, quello che ci interessava era cercare di coinvolgere quante più persone possibili, al di là del genere musicale, al di là della tipologia di che ne so, di disegno, illustrazione, dello stile, della tecnica, quante più persone possibili che si muovono all'interno del discorso dell'autoproduzione, che fanno le cose con un certo tipo di ottica, con un certo tipo di impostazione, che naturalmente non è quella di farla né per lavoro né per guadagno e nemmeno per la gloria alla fine. E quindi alla fine abbiamo in realtà visto, cioè, nel corso degli anni, che c'è veramente tanta gente che si sbatte e che fa delle cose spettacolari, e questa è una minima parte di quello che siamo riusciti a come ti posso dire, delle persone che siamo riusciti a coinvolgere. Anzi, in realtà Alda ha lanciato un po' l'idea su Facebook e una marea di persone hanno risposto, quante, infatti veramente non me lo ricordo quante, però veramente tante. Naturalmente noi poi qui appunto al di là del genere abbiamo messo tutta una serie, diciamo tra virgolette, di paletti che erano sottintesi, infatti non c'è stato nessun tipo di problema, tra cui non essere iscritti alla SIAE, non c'è stato nessun tipo di contratto, c'è un discorso dei Creative Commons più che altro per tranquillità interna, visto che appunto ci stanno 76 persone tra gruppi e illustratori, e quindi sai com'è, insomma, traduttori, grafici, fonici e persone che ci hanno dato una mano in maniera più o meno sotterranea, e naturalmente poi dopo, cioè, è brutto di grazie a tutti, però in realtà forse magari nominare tutti sarebbe, cioè, probabilmente una trasmissione e mezza, quindi... Quindi niente, poi non so, magari se ecco, ne parliamo con Alda o sentiamo un pezzo, questo in base a come vuoi tu, insomma. Va bene, allora adesso ascoltiamo intanto un altro pezzo che prescinde da questo lavoro, poi ascolteremo qualcosa, magari proprio il pezzo delle cose perse, direi. Allora adesso noi ascoltiamo i Miss Fräulein, gruppo cosentino che opera sulle scene da un bel po' di tempo. Questo è un pezzo vecchio del loro primo promo, se non sbaglio, una cosa del genere, A Professional Dinner Out si chiama. Miss Fräulein, Lover's Time. We'll be right back. Allora, siamo tornati in onda in attesa della telefonata. Arriverà? Che arriverà, vediamo se arriva e aspettiamo. E intanto vuoi dire tu, visto che le cose perse hanno partecipato a questo prodotto. Sì, io penso di dover parlare dopo che avevamo sentito il pezzo. Ah, è vero, questo è anche vero. E questa è una terribile verità che... Vabbè, non parliamo del pezzo nello specifico, ma parliamo del vostro... Apporto. Apporto, sì. L'apporto... Della vostra esperienza rispetto a questo. L'esperienza è stata traumatica, infatti sono in analisi. C'eri no. Anche da prima. C'ero anche da prima. Ci lavoro, alla fine sono uno psicologo, quindi sì. No, allora, beh, conosco Giulio e compagnia da tanti anni, quindi quando loro hanno fatto questo progetto, loro ce l'hanno chiesto e noi abbiamo detto subito di sì. Mi appunto una cazzo di zanzara, sa che fastidio che mi sta dando. Noi abbiamo detto subito di sì, ho detto sì, partecipiamo, perché ci piaceva l'idea... soprattutto di fare una cosa che non avevo mai fatto, cioè scrivere un pezzo ispirato da un testo di qualcun altro, e fino a quel momento zero. E poi molto bella l'idea di allargare il concetto do it yourself a qualcosa di più ampio del classico, non per questo meno importante, però classico disco di un gruppo do it yourself, classico concetto di un'etichetta di do it yourself, eccetera. E poi capite meglio di che parlo quando Giulio e Company vi descriveranno. Poi Giulio e Company, quando Gabriele e Company vi descriveranno il progetto. E quindi niente, ci siamo messi lì e il pezzo inizialmente l'ho tirato fuori io, semplicemente ho ascoltato una mezza dozzina di volte il racconto di Alda. Sì, il racconto di Alda. Ma sei distratto dalla zanzara tu. Sì, ma guarda, un cazzo di fastidio che non ti immagini. Dal racconto di Alda, che poi noi ne abbiamo scelto un altro, poi un altro ancora, però Giulio ha detto no, questo l'ha preso Tizio, no, questo l'ha preso Caio. E alla fine abbiamo preso quest'ultimo pezzo. E che è il quinto racconto, e l'ho ascoltato una mezza dozzina di volte. Poi lo ascoltavo con la chitarra in mano, e più o meno alla quarta, quinta volta che lo ascoltavo ho iniziato a tirare fuori qualcosa con la chitarra, fino a quando non è venuto il pezzo che poi, vabbè, sentirete. Poi l'abbiamo provato, l'abbiamo ovviamente riarrangiato tutti insieme, ricostruito tutti insieme, e fino nella fase di registrazione c'è stata tutta una costruzione. Poi si sentirà, insomma, un po' meglio dopo. E speriamo di averlo ben interpretato. Peraltro non so cosa pensi Alda del nostro pezzo, quindi adesso glielo potremo chiedere. Allora, glielo chiediamo se ci sente. Sì, tutto bene, ciao. Ciao, allora, tu non so se hai sentito quello che stava dicendo Flavio adesso. No, non mi sono riuscita a collegare stasera. Allora, quindi parlava, vai Flavio. Sì, niente, ciao Alda, stavamo parlando un po' del pezzo. Ciao. E ci chiedevamo anche che cosa ne pensavi del pezzo delle cose perse. Pronto? Sì. Sì. Hai sentito? Sì. Allora, quindi chiedeva che cosa ne pensavi del pezzo delle cose perse. Non è che, cioè, per me tutti i pezzi sono stati ottimi, quindi non mi sono fatto un giudizio personale su un singolo pezzo, lo vedo più come una cosa complessiva, diciamo così. Che è un modo per dire, oh, la tua domanda è retorica, Flavio, oppure il tuo pezzo è di merda. No, scherzo, Alda. No, non essendo una musicista mi trovo un po' difficoltà a no, esprimere certo. Dei giudizi sui pezzi musicali, anche perché ho lasciato praticamente ampia libertà a ogni musicista, per cui non mi sento di dare un giudizio, ecco. No, certo, era più una curiosità ovviamente nostra. Quindi certo. Prendiamolo che è un buon pezzo nella globalità del progetto. Sì, no, lo trovo un lavoro molto organico proprio in tutto il suo insieme. Allora, io chiedo come se fossi una persona che non sa niente di tutta questa operazione. Come è nata il fatto di musicare i pezzi e come è nata la collaborazione? Ah, praticamente quando io ho scritto questi brani, li ho scritti appositamente perché pensavo che sarebbero stati recitati da me. Avevo già fatto un esperimento molto minimo per un brano che si chiamava Coltelli e avevo fatto un'autoproduzione, era un brano di 3 o 4 minuti, una specie di reading su un brano di Chopin. E avevo venduto questo disco, questo CD anzi, per conto mio, stiamo parlando del 2000-2001 forse, e quindi ero rimasta un po' così, mi era rimasta questa curiosità di sperimentare ancora qualcosa di quel tipo, però con dei musicisti diversi. E avevo iniziato a documentarmi sulle teorie della musica delle sfere celesti, dei suoni rimasti impressi nelle rocce quando c'è stato il Big Bang. E, ero molto incuriosita dall'ambient in quel periodo. E diciamo che ho iniziato prima a scrivere i pezzi pensando comunque di trovare dei musicisti che li potessero mettere una specie di colonna sonora ai miei desideri, e questo che ne è uscito adesso è proprio esattamente quello che io desideravo, cioè una sperimentazione di vari gruppi musicali su dei brani miei che comunque sono stati registrati senza la musica. Sì, no, io stavo riflettendo un poco. Anche stavo, se non è ambiente. Stavo sì. Cercando di unire i pezzi e insomma è molto interessante sicuramente, soprattutto la questione delle rocce. Particolare. Ma io... Ho cercato di fare un po' il riassunto di tutto quello che è stato il percorso che poi mi ha portato oggi qui. Sì, no, chiaro, anche perché si parla di un po' di anni, quindi è normale dover tralasciare un sacco di cose e cercare di trovare il punto fondamentale per spiegare insomma il percorso. C'era un'idea anche musicale ben precisa, cioè ti aspettavi qualcosa di specifico oppure no? Hai dato anche, non so, delle indicazioni in questo senso? No, non ho dato nessuna indicazione. Ho pensato, come mi succede spesso quando penso ai miei lettori, non me li vado io a cercare, penso che saranno i lettori che verranno da me quando gli piacerà quello che io faccio. Quindi il fatto che si stabilisca un legame è qualcosa che va oltre insomma a quelli che sono i miei desideri personali, e con questi musicisti mi sono comportata allo stesso modo. Per me era importante comunque che facessero parte dell'area dell'autoproduzione, cioè comunque non avessero delle pretese a livello diciamo di CIA o altro, perché comunque era importante che fosse una sperimentazione innanzitutto che mantenesse basso il livello del prodotto dal punto di vista economico, nel senso che non costasse troppo la realizzazione, e questo perché magari i gruppi non avessero dei falsi budget creati più dall'appartenenza a un sistema economico proprio di diritti che poi non vengono percepiti. Non so se riesco a spiegarmi bene. Sì, no, è chiarissimo. Sì, è quindi niente, noi alla fine siamo riusciti più che altro proprio appunto insieme a Alda, abbiamo parlato di questo progetto, noi ci siamo letteralmente esaltati. Come diciamo prima, abbiamo Alda ha lanciato questa proposta su Facebook, noi abbiamo cercato di contattare un po' di persone, un po' di amici appartenenti proprio al giro appunto delle autoproduzioni o comunque di produzioni musicali veramente underground, al di là dei generi, e la stessa cosa è stata fatta successivamente con degli illustratori, e quello che è venuto fuori è questo CD con 15 tracce audio, con Alda che legge i suoi racconti, musicati da questi 15 gruppi di generi completamente diversi, perché noi abbiamo cercato di prendere l'approccio punk hardcore, ma proprio cercare di portarlo via assolutamente, uno non prende distanze da niente, da quello insomma che è il giro prettamente hardcore. Quindi ci stanno pezzi che vanno dal progressive a appunto al punk hardcore, dal free jazz al noise industrial, a sperimentazioni, che ne so, screamo, o comunque di vario genere. Stessa cosa per le illustrazioni, infatti alla fine questo insomma l'oggetto diciamo è una confezione DVD con un CD e un booklet di 48 pagine con i testi in italiano e tradotti in inglese, francese e tedesco, perché l'intenzione è quella di farlo girare quanto più possibile anche al di fuori dell'Italia, che purtroppo è una cosa che un po' si è persa forse nel corso degli anni, almeno nel circuito dell'autoproduzione, e con le illustrazioni di questi 15 disegnatori. La copertina anche è di un altro illustratore grafico, qua non so, magari Alda se ne vuoi parlare tu della copertina. Sì, volentieri. C'è questa simbologia del cuore trafitto che mi interessava sempre molto, perché comunque da questa ideologia del cuore e amore che fa rima con amore eccetera è sempre stata un po', a mio parere, cercare di infrangerla, ecco. Quindi già questo, no, di accoppiare una cosa così sentimentale come la nostra idea del cuore con una grafica più truce, no? Come un cuore proprio, come un organo con tanto di vasi sanguigni che ne spunta, e accoppiarlo sempre con delle armi da taglio, comunque con quello che viene definita un po' la violenza, che però sono talmente nette, pulite, che diventano forse più affascinanti e compatte del cuore alla fine nell'immagine che c'è di copertina, per cui c'è questo ribaltamento della simbologia, che poi in realtà io tutto questo a Gian Nicola Maestro, che appunto ha realizzato la copertina e anche la grafica dell'interno del libretto, non gliel'ho mai detto, però si tratta di una persona che mi conosce profondamente, tant'è che è stato il primo mio lettore che mi ha scritto, mi ha inviato una lettera più di 20 anni fa, in occasione dell'uscita del mio libro Giù nel delirio, perché era nata presso nel 91. Sì, l'aspetto interessante è stato proprio il fatto di insomma vedere alla fine come tutte queste persone, nonostante hanno poi prodotto delle immagini o delle musiche apparentemente molto molto diverse, distanti tra loro, in realtà hanno tirato fuori degli aspetti, delle sfumature che stanno all'interno dei racconti. Quindi quello che all'inizio noi pensavamo potesse essere una sorta di minestrone che appunto passava da sonorità prog ai rumori dei trapani, in realtà invece diventa una sorta di filo conduttore che attraversa diversi, non so, dal mio punto di vista, stati d'animo. Io proprio lo percepisco come appunto come lettore, ascoltatore, fruitore. Quindi Per me anche il discorso che comunque facevo prima, no? Il fatto di non soffermarsi sulla singola opera, ma di riuscire a vedere, forse io lo riesco a vedere, non so se lo vedranno anche le persone che soffriranno poi alla fine del prodotto, però di riuscire a vedere che comunque dentro sia alle illustrazioni che alle musiche ci stanno degli stilemi miei che non sono nemmeno quelli che stanno, cioè ci stanno anche nei brani, però sono anche più profondi. E queste persone hanno dimostrato tutte di sapersi sintonizzare molto bene con me a livello proprio di archetipi quasi. Alda, sono Gabriele, sempre di Deny Everything. Anche se abbiamo fatto questo progetto insieme, volevo comunque per la trasmissione chiederti una cosa, cioè quanto è stato importante il discorso dell'autoproduzione per realizzare un prodotto che comunque alla fine ha coinvolto un numero di persone allucinante, insomma quasi 100 persone per un prodotto, e cosa ha significato, cioè se questo prodotto sarebbe stato possibile in qualche altro modo, oppure se questo discorso su cui stiamo parlando insomma questa sera dell'autoproduzione, del do it yourself classico del punk, dà un valore in più, insomma dà la possibilità anche a scrittrici affermate come te, che insomma non avresti avuto bisogno di contattare altre 100 persone per un tuo nuovo prodotto, perché avresti tranquillamente potuto usufruire di un editore. Quanto è importante questo discorso dell'autoproduzione in termini di nuove relazioni, contatti o realizzazione finale di un prodotto? Quanto dà valore questo discorso dell'autoproduzione? Io credo che questo prodotto non esisterebbe se non fosse stato realizzato in questa maniera, e nemmeno le persone che ci hanno lavorato l'avrebbero fatto come l'hanno fatto se ci fosse stato dietro un editore, anche un editore importante che avesse comunque ricavato un profitto da questo lavoro. La cosa più fondamentale però secondo me di tutto questo è la libertà, nel senso che nessuno ci ha imposto quello che dovevamo fare o non fare, e ogni artista ha lavorato autonomamente. Non l'ho, per rispondere a una domanda di prima che forse non avevo completato, nemmeno io ho fatto delle richieste particolari, né mi sono permessa di orientare le persone in un certo modo, anche se poi abbiamo notato che tutti i gruppi, poi alla fine non hanno fatto nemmeno quello che erano, diciamo così, tra virgolette, abituati a fare, ma si sono modificati a seconda del prodotto che avevano tra le mani, che era appunto la registrazione in brani, voce miei. Quindi poi alla fine ognuno ha dato di sé quello che desiderava, ma nello stesso tempo nella più assoluta libertà e comunque anche compatibilmente con quello che era quello che io avevo posto, che comunque erano i brani. Quella era, diciamo, l'unica condizione che avevo io comunque di lavorare sui miei brani voce. E poi quando abbiamo finito il lavoro, la prima parte, diciamo, che abbiamo cominciato a sentire i brani, ci sono stati un paio di piccoli aggiustamenti, però erano più relativi all'interesse che avevamo che il prodotto fosse fruibile, che non a quelle che erano le mie idee del prodotto. Non credo che saremmo mai riusciti a realizzare qualcosa del genere con tante persone che hanno lavorato in maniera così appassionata di notte, hanno fatto veramente tutti i salti mortali riuscire a finire questa cosa. Io stessa mi sono stupita di quanto comunque questa mia richiesta abbia avuto successo, e tutte queste persone che hanno lavorato per questa raccolta. Sì, che poi insomma magari, ecco, visto che diciamo prima noi magari lo diamo per scontato, però tutte queste persone qui hanno, diciamo, lavorato, si sono appunto sbattute nel vero senso della parola per poi alla fine avere in cambio due copie simboliche, nel senso nessuno ha preso una lira o un euro, insomma, da questo discorso, proprio perché appunto autoproduzione, e questo è quello, il massimo di quello che siamo riusciti a fare. Poi insomma qua la tiratura è minima per quello che consentono i mezzi dell'autoproduzione, 1200 copie, però appunto insomma tutte queste persone qui hanno fatto delle cose spettacolari e l'hanno fatte appunto per passione, perché hanno creduto nell'idea e sono stati insomma. Infatti dei io stesso comunque non ho avuto copie in omaggio di questo. Povera Alda. Anzi Alda questo insomma ci teniamo a... A me viene in mente un detto che però riguarda il cetriolo, l'ortolano, insomma vabbè, una cosa un po', però insomma succede spesso così. No, a me viene in mente una domanda, cioè a prescindere dalla collaborazione diciamo musica e testi, io volevo chiedere, anche se è una domanda può sembrare scontata, però magari per far capire a chi ascolta di meglio di cosa stiamo parlando, che cosa rappresenta questi racconti, che cosa rappresentano, se cioè, sicuramente hanno un significato, però cosa rappresentano magari in generale o nello specifico, ecco. Non ho capito la domanda, scusa, cosa rappresentano, a che livello? A livello personale tuo. Ah, ok. Sì. Allora, guarda, questa diciamo che è la punta più alta di quello che è il legame che unisce l'autore al suo lettore. Anche se alla fine qui non si tratta più di lettore, perché comunque il prodotto principale di 15 desideri per me non è il libretto, cioè il libretto può servire come traccia per vedere i brani, oppure per persone che magari non sono italiane, per leggere i brani, per capire che cosa viene detto nel... però è proprio un booklet, non è un libro, quindi però ugualmente per me rimane sempre il mio lettore che ascolta quello che io ho da dirgli. Quindi non lo legge con i suoi occhi, ma lo legge direttamente dalla mia bocca. E nello stesso tempo si crea un legame molto forte, che è quello, c'è sempre un legame sensuale, un legame erotico tra l'autore, tra lo scrittore anzi, e il suo lettore. È un legame molto esclusivo che secondo me difficilmente si crea nelle altre arti, è una voce quella che il lettore ascolta, e il fatto che comunque si tratti di brani che in qualche maniera abbracciavano tutto quello che era l'universo erotico che io conoscevo, cioè tutti quelli che erano i desideri di una donna che vuole in qualche maniera comunicare a un uomo che lei ama, però tutta la gamma delle cose che lei può desiderare dal suo uomo. E quindi mi piaceva molto questa idea che comunque il lettore per una volta diventasse mi ascoltasse mentre gli parlavo, ed è per questo che è importante che comunque nel disco ci sia la mia voce, oltre al fatto che comunque tutti mi hanno detto che è una voce molto bella, però quello che era importante veramente era che io parlavo al mio lettore. Di solito nei libri disco questo non succede, cioè lo scrittore che ha scritto i racconti che vengono messi in generale sui libri disco non è la stessa voce che li recita, mentre per me era importante anche che fosse la mia voce e soprattutto che il lettore sentisse quelle che erano i desideri come io li avevo pensati, cioè ascolta la mia voce che vi recita nello stesso modo in cui io li ho pensati quando li ho scritti. Spero che sia chiaro. Sì, è chiarissimo, chiarissimo. Va bene, io ti ringrazio per questo, perché non voglio poi parlarne troppo in modo tale da far lasciare la curiosità a chi sta ascoltando e quindi di avvicinarsi direttamente. Io ti ringrazio di essere stata presente in qualche modo e di averci spiegato anche se in poco tempo chiaramente, però di aver dato uno scenario abbastanza ampio di tutto quello che è stato e che speriamo sarà rispetto a questo lavoro. se vuoi aggiungere, spero non sia stato troppo delirante quello che avete ascoltato. No, assolutamente. Io ancora sto veramente sto ripensando al discorso delle rocce, quello davvero, perché mi ha colpito molto, senza dovevo approfondire in qualche modo, vorrò approfondire. No, io volevo chiederti se volevi aggiungere qualche ultima cosa in generale, insomma, se volevi aggiungere qualcosa. Beh, l'unica cosa che posso veramente desiderare di aggiungere è il fatto che io sono estremamente grata a tutti quelli che hanno lavorato per questo prodotto. È di alto valore quello che hanno fatto, è un valore che va molto oltre al discorso delle due copie che poi alla fine si sono presi, o di quello che costerà il disco, le spedizioni e tutto il resto. È proprio un valore di qualcosa che è stato realizzato insieme. C'è stato un tizio una volta che mi ha detto: beh, ma i musicisti basta che gli chiedi di fare un brano e si fiondano tutti come se niente fosse, basta che gli chiedi di fare qualcosa. Io non lo credo, sinceramente. Sono persone che lavorano come me e facciamo tutti una grande fatica comunque per portare avanti i nostri rispettivi discorsi, quindi per me è importantissimo, e spero che comunque presto ci sarà ancora altri progetti su cui lavorare tutti insieme. Grazie a tutti. Alda, volevamo chiederti prima di salutarci, così magari in maniera estemporanea, se tu sei d'accordo, se ti andava di leggere un desiderio. Ah, ok. Non era preparata, però se ti va, insomma. E non so se la voce è abbastanza buona per poterlo, leggere. Voi che ne dite? È chiara, la voce è chiara. Proviamo, facciamo. Ok, allora un esperimento. Qui c'è Flavio con la chitarra acustica. Non dire, perché se mi viene qualcosa tiro fuori. Ah, ok, no, vabbè, insomma, nel caso allora sentissi un po' di musica, è qui Flavio con... Non spaventare, Alda, se senti un po' di musica strana. Ah, ok, va bene, un attimo solo. Sì. No, nel frattempo io, insomma, ne approfitto per dire una cosa, visto che prima, insomma, ero uscito fuori, ci tenevo, insomma, a dirla. Alda, oltre a non aver preso più copie... detto in maniera brutale, ci ha messo anche i soldi, nel senso che ha creato appunto, il discorso dell'ortolano, ha creato una sua etichetta DIY e con cui ha partecipato alla coproduzione, e questa è stata una cosa ancora, insomma, molto bella. Poi magari dopo, se c'è un attimo, diciamo due parole proprio sulla coproduzione, perché noi siamo stati molto contenti del fatto di, non lo so, nel senso, siamo cresciuti vedendo certi nomi sui dischi e poi improvvisamente ci siamo trovati nel disco che abbiamo fatto insieme a loro. Insomma, è bellissimo questo. Non so, Alda, no, aspetta, si sta preparando questa cosa che è stata decisa. Ok, ci siamo. Io sarei pronta. Perfetto, quando vuoi. Spero che sia gradevole anche per voi, perché io mi sento tutta la voce che mi torna, no, praticamente. No, qui è buono. Ok. L'amore eterno è quello che uccide. Ho la testa piena di storie di amanti che si massacrano per non doversi lasciare. Mi affascinano le storie di omicidi rituali, dove la morte è una scelta consapevole e viene affrontata da nudi, come per un amplesso con lei. Ho desiderato essere io la tua morte, venire da te vestita con un lungo mantello nero, come un fantasma, abbracciarti e sentirti cedere tra le mie braccia, soffocato e avvinto dal mio profumo. Vorrei spogliarti e farti stendere su un letto di petali di rose, profumarti con le essenze più pregiate, prepararti come si prepara la vittima al sacrificio. Vorrei esaudire e cedere a ogni tuo desiderio, come sempre si fa coi moribondi.

Tornati in studio dopo aver ascoltato Camera 237, Camera numero 33. E si stava parlando di Radio Riot. Sì, sì, noi parlavamo di Radio Riot perché insomma verso i 15 anni abbiamo iniziato a sentire i primi dischi punk perché ce li passava Peter di Radio Riot. E sì, io c'avevo, sì, io 15-16 anni al massimo, 2001 era? 2002 forse, non lo so. Beh, ma si sente più di nuovo ogni tanto. Sì, no, non mi ricordo, 15 anni, cazzo. Sono passati così tanti anni allora. Eh sì, mi ricordo che insomma, niente, noi ci avevamo tutta un'altra idea magari del punk, nel senso che dell'hardcore, nel senso che GBH Exploited a manetta, e poi invece a un certo punto c'è proprio la classica situazione tipo dell'amico che ti fa sentite sta roba, in quel caso erano i Bellicosi, Frammenti e compagnia bella, e adesso a distanza dei 10 anni insomma aver fatto questa coproduzione insieme purtroppo è l'ultima produzione di Radio Riot, però insomma è una cosa che a noi ci ha fatto immensamente piacere, non per farci insomma i complimenti a vicenda, però insomma è sempre piacevole. Sì, no, scusa, perché siamo stati 3 ore a smanettare col microfono e l'aspetto. Ah no! L'età comincia a farsi sentire, va? Capite che avremmo dovuto chiudere. Cioè tu mi hai fatto entrare nel panico per niente. Sì, succede. Dai, io direi per fortuna, più che purtroppo, è stata questa l'ultima coproduzione, perché è bello, no? Si chiude un ciclo, poi l'ultima fatta al 10° anno di vita, questo progetto, che è un progetto comunque che Radio Riot non, a cui Radio Riot non aveva mai partecipato a qualcosa di simile, quindi dai, vediamoci la cosa dal lato positivo. È stato bello, è stato un bene partecipare a questa come ultima coproduzione, non si poteva chiudere veramente nel modo migliore. Sì, beh, però dai, diciamo almeno dal punto di vista nostro dispiace, nel senso che magari sarebbe troppi pochi banchetti uno vicino all'altro alla fine, dai, nel senso, continua, sì, tutto continua. Sì, è lo spirito continua, come diceva qualcuno, tanto questa è la frase secondo me con cui qualunque gruppo punk, qualunque distro, qualunque realtà DIY che si scioglie poi conclude la propria attività, no? E no, vabbè, Radio Riot era da finire perché non andava più avanti, quindi fare le cose fatte per bene in un certo modo non venivano più fatte in quel modo, c'era chi le faceva meglio di noi e quindi abbiamo preferito far continuare a fare agli altri piuttosto che non farlo. Il fatto che la distro l'avete completamente ereditata da voi è il passaggio di testimonie più esplicito. C'è stato un ragazzo che poco dopo aver chiuso ci ha detto dai ragazzi, ma facciamo continuare Radio Riot, te la prendo io, faccio io le cose eccetera, però gli abbiamo detto guarda, sì, a noi fa anche piacere che il nome continua, però come la vuoi fare? Perché se la devi fare così per cercare di portare avanti un nome e essere preso dalla nostalgia e non voler vedere terminare una cosa che va avanti da tanto tempo, non ha senso. Se ci vuoi mettere dietro passione eccetera, sì, ma se è preso dalla nostalgia, presi dalla nostalgia, l'avremmo continuata noi. Certo. E infatti non, lui ha anche detto beh sì, c'è ragione, no, forse è più l'attimo, probabilmente sarebbe rimasto quel nomignolo lì in un sito che non c'entrava nulla. E così che continuavo. Storie di vita vissute. Io ascolto in silenzio, vissuto, sì. Vi faccio parlare perché chiaramente non posso interrompervi. Altri 2 minuti scende la lagrimuccia. Infatti, tra l'altro. No, ma cioè, per me, ecco, The Night Everything è proprio quel meglio di quello che noi con Radio Riot abbiamo sempre cercato di raggiungere. Perché no, è vero, perché noi da sempre, ma da, ti dico, dopo 2-3 anni che stiamo su, cercavamo qualcuno che entrasse dentro Radio Riot per prenderla poi al posto nostro, cioè continuare Radio Riot al posto nostro. Quello che fate voi, secondo me, riprende completamente quello che facciamo noi e anche in meglio su tanti aspetti, perché portare avanti una distro con una certa costante, portare avanti una cosa che per noi è sempre stato fondamentale, cioè la personalità, non fare qualcosa che è stato già fatto, viene già fatto a tutti nello stesso modo, se non peggio di chi lo fa, ma una cosa che secondo me non ha mai inventato nessuno, il fare la il censimento delle fanzine, portare avanti le fanzine, cioè vi siete inventati qualcosa, avete creato qualcosa. Ma guarda, noi, cioè, tanto grazie, in realtà non ci sembra di esserci inventati niente, nel senso, quella roba che sta lì fa parte, cioè, per come l'abbiamo vissuta noi, almeno questo è il nostro, tra virgolette, nostro modo di comunicare, cioè il modo di comunicare della gente che fa parte di questo qualcosa, che poi vabbè, chi lo chiama scena, chi lo chiama in un altro modo, nel senso, se tu sei in quel modo, comunichi in quel modo. E quindi non lo so, boh, se capitati nel periodo storico in cui buona parte dei fanzinari si buttavano sulle webzine e sono state tralasciate per un po' le fanzine, poi c'è stato il passaggio dalle webzine ai MySpace e è rimasto indietro anche la webzine, poi anzi in mezzo c'è stato il blog come passaggio, poi dopo dal MySpace al Facebook, tralasciando addirittura anche il MySpace, adesso siamo in un momento in cui non si capisce bene e tutti i passaggi precedenti sono stati bruciati e noi però continuiamo a sentire come nostra questa forma di comunicazione, nel senso, cioè, io voglio sapere che cosa pensa quel gruppo e allora ti vai a leggere un'intervista e la trovi prima su carta, poi su un sito. Adesso è diventato anche difficile, che ne so, boh, esce un disco di un qualunque gruppo e dici, boh, fammi vedere un po' che ne pensa sto gruppo di un argomento X in linea di massima, e non lo trovi. Ma nel momento in cui dici, noi quello che semplicemente volevamo fare era esprimere noi stessi la nostra identità, giusto? Questo dici. E qua esce poi lo psicologo, no? Nel momento in cui dici una cosa simile, in realtà per me dici una cosa la fine. Pericolosa, perché non è quello che fanno in molti. Non è quello che da sempre hanno fatto in molti. Quindi se quello che cioè se il fare una webzine, una fanzine, un gruppo eccetera esprime la propria identità, vuol dire che l'identità della maggior parte delle persone era paradossalmente un'omologazione. Paradossalmente, perché nel punk sempre contro ogni omologazione, tutte queste stronzate. Stronzate perché non veniva fatto. Sentivi gruppi su gruppi che facevano, che fanno tuttora le solite cose, webzine su webzine che facevano le solite cose. Webzine abbiamo iniziato con Pancadeca, Radio Riot, Monnezza, che ci siamo inventati qualcosina. Noi siamo debitori nei confronti della Mette, questo. Ok, che ci siamo inventati qualcosina. Poi ecco, sorgeva qualcun altro, ma anche lì gente che ti faceva la webzine, ma era soltanto un modo per ricevere i dischi gratis a casa. Infatti dopo un anno, due anni chiudevano, sai quante ne abbiamo viste. E quello che dico, infatti, è per questo il discorso che noi portavamo sempre avanti era, no, cerchiamo di fare qualcosa di personale, anche con le cose perse. Cerchiamo di fare qualcosa di personale. Ok, ho capito che in quel momento andavano i Converge e c'erano tutti i gruppi che facevano i Converge. E diciamo invece no, cerchiamo di fare i Andrea Pochino Carta, Mauretto De Santis e Flavio Canistra. Magari non se li caga nessuno, perché in quel momento hanno i Converge, non andranno mai Mauretto De Santis. Però comunque esprimi te stesso, come voi, dice, proviamo a tirare fuori qualcosa che riguarda più la nostra individualità, facciamo un censimento di fanzine, tiriamo fuori delle fanzine e poi vi sentite le persone che vi dicono, ah, siete degli intellettuali del cazzo, ok? Quello è... questo è il rischio. E nel momento in cui dici, però quello che stiamo facendo è, perché è vero, essere noi stessi, è pericoloso, perché implicitamente affermi che, cioè affermi in realtà, mostri una realtà di fatto che il me stesso per la maggior parte delle persone è essere semplicemente qualcun altro. Con Nadir dicevamo, il brutto dei gruppi, di molti gruppi, è che esiste un gruppo che si inventa qualcosa di fico, i Converge da un lato, per mo perché ovviamente questo gruppo, ma può essere loro da un lato, i frammenti da un altro, per parlare di casa nostra. Poi c'è un altro gruppo che li copia e tutta una miriade di altri gruppi che copia il gruppo che ha copiato i frammenti. Sì, sì, ma questo sicuramente dal punto di vista... è assolutamente così. È fantastico, è fantastico questo processo di clonaggio. È assolutamente così. A me viene in mente un altro gruppo che sono i Green Day, che hanno in qualche modo copiato il punk alleggerendolo, e tutti quanti hanno copiato i Green Day, devastando quello che comunque loro, anche nel loro piccolo, cioè si può criticare, però... qualcosa, una innovazione in un certo senso l'avevano, certo, apportata. Sì. Sì, beh, questo in realtà poi è un discorso più generale e devastante, nel senso che magari tutto quanto sto tipo di realtà, Green Day in particolare, c'avano secondo me almeno una funzione, tra virgolette, di ponte, no? Essendo più accessibili, sì. Tu magari beccavi Green Day, beccavi, che ne so, i Pancreas, a seconda del periodo in cui sentivi, beccavi NoFX, e poi dopo da lì arrivavi direttamente. Quando invece adesso ti becchi i cloni, però i non figliolini. È detto che ci arrivi anche con loro, non è detto che ci arrivi, anzi, l'esempio dei Green Day, sono arrivati ai Green Day e non si sono avvicinati a quello che è. Certo. È vero, però aspetta, però tu parli anche dei Green Day di mo. È lì che è stato, nel momento in cui loro sono nati, hanno creato quel qualcosa, lì hanno iniziato, cioè è iniziata la fase distruttiva inevitabilmente, anche dall'inizio, perché gli stessi gruppi che provavano a copiare i Green Day dell'epoca, dei primi Green Day, cioè comunque andavano a copiare, non cercare di creare un soggetto diverso, però con gli stessi. Sì, no, questo. Però, vedi, cioè, secondo me, poi questo, vabbè, magari è il discorso strettamente musicale, no? Nel senso che alla fine, ok, si suona i Green Day, però magari da lunedì al venerdì fai tutt'altro, quindi, cioè, benissimo, nel senso, non è che. Cioè, noi facciamo suoni Renzo Arbore da lunedì al venerdì e poi sabato e domenica i Green Day. Sì, cioè, va benissimo, ognuno è libero per quanto possibile, per quello che ci riguarda. Renzo Arbore ha fatto molto indifferenza reciproca. Però magari, ecco, che ne so, almeno nel senso, noi, almeno io, insomma, sto fuori Roma, non c'ho fratelli più grandi che mi passavano cassettine più fighe, quindi magari certa roba prima ci arrivi solamente perché c'hanno il nome punk nel nome del gruppo, e poi dopo magari arrivi a conoscere altri gruppi. Quello però sta alla coscienza personale di ognuno. Però sì, certo, no, non è così, lineare il percorso. Però beh, ecco, magari se te levano pure quello e tu becchi solamente, che ne so, Good Charlotte o roba del genere, insomma, magari è ancora più difficile. Cristina dissente. Si è stata in piedi e ha incrociato le braccia. Ha detto basta, io non sono d'accordo, i Green Day... No. Allora, visto che io vi interrompo, visto che abbiamo fatto questo mega pippone di 10 minuti di musica, che per noi è stato sicuramente molto divertente e stimolante, ascoltiamo un po' di musica, riprendiamo anche il discorso dei 15 desideri. Sì, undicesimo desiderio, Desperate Living, sono un gruppo romano, mi perdoneranno se cerchiamo di dare un minimo di coordinate. Diciamo post-hardcore, stile Screamo, alla Orchid, boh, non so, forse. Latitudine 56, longitudine 49. Certo, Parigi, e tua moglie è con te. Mi immagino spesso mentre fate l'amore nel vostro letto, nella casa in centro a Roma, oppure negli alberghi, su lenzuola che hanno ospitato tanti corpi diversi, hanno assorbito sudori e umori di innumerevoli amanti. Immagino i capelli di lei sfiorarti la pancia mentre scende a leccarti il sesso. La immagino mentre ti possiede con quel suo fare dominatore che ha sempre. E invece magari no, non è così. Forse è semplicemente come mi hai detto tu una volta. Vi incontrate casualmente nel dormiveglia e la prendi in fretta come un animale, mordendole il collo e lasciandole poi dentro il tuo seme feroce. Ho desiderato penetrare in casa tua dolcemente e silenziosamente come un cazzo dentro il ventre umido di una donna,

uccide, la paura di esserci, la paura di amarsi, la paura di chiedersi, la paura di uscire, la paura mi fa soffrire, la paura di chiedersi, la paura di amarsi, la paura di uscire, la paura di esserci, la paura mi fa desiderare, la paura non mi fa desiderare, ma stasera ti prego, fammi parlare, la paura non mi fa desiderare, stasera ti prego, fammi parlare, la paura non mi fa desiderare, stasera ti prego, fammi parlare, la paura non mi fa desiderare, stasera ti prego, fammi parlare. Applausi scroscianti. Applausi scroscianti per Flavio delle cose perse. Non diciamo chi ha che suona. No, una domanda, ma tu non suonavi il basso, infatti. Sì, è che il nostro chitarrista... Ah, è sempre incinto. Sì, è sempre incinta, quindi non è potuto venire perché ha difficoltà a suonare la chitarra con la pancia. Chiaramente, chiaramente. Ok, vabbè. Salutiamo i Desperate Living che ci stanno ascoltando. Massimetto, Piddu e Roberto che hanno fatto il pezzo che abbiamo sentito subito prima delle cose perse. Salutiamo, sì, certo, salutiamo. Io continuo a smanettare, se io mi assento perché continuo a smanettare con volumi. Salutiamo pure il grande amico di Massimetto, Federico Fiumani. Sì, io vorrei salutare mia madre, mio padre, mia sorella che in ascolto, anche poi mia nipote che ha 3 mesi e mezzo, poi vorrei ascoltare e salutare anche Pino Scotto, Renzo Arbore. Pino Scotto. Sì, vorrei salutare anche mio nonno, vorrei salutare per favore, anche se mi permetti, il presentatore di Rai 1 di quel programma della mattina, poi anche il referendum al nucleare, i 4 sì, vorrei salutare anche i cani di Sara, Lino, Nino, Gino e Dino, poi vorrei anche, sì aspetta, vorrei salutare anche Valeria Marini e tutte le ragazze di Nonella Rai, poi aspetta vorrei salutare anche per favore l'inventore delle Converse. Io ti taglio, faccio partire il pezzo, io ti taglio. L'inventore delle Converse. L'inventore delle Converse. Sì, John Converse. E dedicare tutti questi nuovi pezzi alla memoria di Mario Magnotta. Alla memoria di Mario Magnotta, che povero Mario. Chissà se l'avrà capito alla fine. L'ha capito, faceva gli show. Senti, io mi perdo. Aspetta, vuole salutare. No, vabbè, allora, noi siamo, non so, in realtà no, non so se siamo arrivati alla fine. Diciamo che sono... ufficialmente il programma finisce alle 23.30, però in realtà secondo me non è il caso. Sono le 23.18, quindi potremmo fare 12 minuti di silenzio. Così. A partire da ora. C'è la musica sotto. Ok, quindi niente. Per protesta. Un silenzio assenso. No, vabbè, parliamo invece del pezzo vostro, di questi 15 desideri. Sì, niente, già la seconda volta dice parliamo del pezzo vostro, io dico, ma prima fallo ascoltare. E, poi e lui prima mi ha detto, hai ragione, cazzo! Hai perfettamente ragione. Allora, il pezzo si chiama? Desiderio numero 5. Desiderio numero 5, ok, che adesso... No, aspetta, una cosa che io non so, non hanno un titolo questi desideri? Inizialmente nella prima versione, se non sbaglio, avevano un titolo. Vedi? Poi, successivamente, invece... No, desiderio numero 5. Sono stati... sì, è stato tolto il titolo. Ok. Ok, allora io adesso devo un attimo riaggiustare la situazione. Perché tu aspettavi che io parlassi in modo da darti il tempo, quindi neanche mi ascoltavi. Quindi, esattamente, cioè, non ti ascoltavo. Vabbè, allora, noi ascoltiamo questo desiderio numero 5. Sta temporeggiando. Sta temporeggiando la grande. Sì, questo desiderio numero 5 che fa parte di 15 desideri, che è un disco... E adesso c'è desiderio numero 5. A volte ci viene la voglia di scappare fuori da questa città di rumore e di fango, di andarcene via lontano. Così, preso una strada a caso, parliamo mentre guidi e so che sei pericoloso, che forse non vedi nemmeno dove stai andando. So che il tuo corpo, le tue orecchie e la tua mente ascoltano me, le mie parole d'amore. Fisso il tuo profilo mentre sei così assorto, poi ci fermiamo da qualche parte in campagna. Siamo lì in macchina per una manciata di minuti e il nostro amore si consuma così, nei baci e nelle carezze e in quell'impossibilità desiderata di fare altro. Una volta un contadino ci ha sorpresi abbracciati. Le sue urla di scandalo erano solo un suono. Hai messo in moto lentamente mentre non riuscivo ancora a staccarmi da te. Dopo non hai più parlato. Ed è stato proprio quel giorno che ho desiderato chiudermi con te in una stanza di vetro. Vorrei che tutti potessero vedere il nostro amore, i gesti, le carezze, i baci che precedono il sesso tra noi, i nostri corpi nudi o quando ci lecchiamo come due belve affamate. A quel punto, ne sono sicura, comincerebbero a urlare vergogna e manderebbero un prete o la polizia per farci coprire. Qualcuno lancerebbe sassi sugli amanti indifesi, desiderando vederli morti pur di nascondere i loro gesti osceni. Eppure tutto questo per me non conta, anzi, mi eccita ancora di più che farlo dentro una casa o in una stanza d'albergo. La prossima volta che la tua auto ci porterà fuori dalla solita strada, voglio prenderti così, nella macchina parcheggiata sul marciapiede, mentre la gente passa. Ma sono sicura che non ci guarderà. Adesso possiamo parlare veramente. È un bel pezzo, sì, è un bel pezzo. E allora, diciamo che quando sentivo il racconto di Alda, ho pensato a due possibilità per fare il pezzo. Una che era quella di crearci un'atmosfera sotto, e una che era quella di reinterpretare con la musica le emozioni che almeno a me personalmente dava il pezzo. E visto che mi sono sempre trovato meglio con lo scrivere questo tipo di canzoni, ho fatto questa cosa, ho provato almeno quantomeno a fare questa cosa qua, e poi tutti insieme abbiamo provato a tirarci fuori qualcosa così. E quindi il pezzo come struttura è molto semplice in realtà, perché deve essere molto di attacco. Io non voglio interpretare il racconto di Alda, quindi non lo farò, non dico cosa risulta per me. Però il lavoro è stato... Perché non lo vuoi dire? No, beh, perché ognuno deve avere la sua interpretazione, ok? Quindi... Se ti chiedo la tua qual è, cosa mi rispondi? Che in verità non l'ho mai elaborato. No, scherzo. Cioè, vabbè, in realtà vabbè, non voglio rimani mozzare. Molto... In verità il suo racconto mi sembra molto esplicito, sì, molto sì, molto sì, chiaro. E quindi quello che volevo cercare di fare era... volevamo cercare di fare dare qualcosa molto di attacco, molto di energico. E poi è stato bello perché è stato un lavoro che in fase di composizione, una volta tirata fuori, sviscerata fuori l'emozione di fondo, non è stato molto difficile tirare, creare qualcosa tutti insieme, arrangiarlo. E la parte più bella è stata a livello di registrazione, di far quadrare tutti i pezzi e di fare un lavoro con i tagli con la voce, in modo che la voce venisse tagliata proprio in dei punti particolari. Prima ancora di tutto questo abbiamo voluto cercare di raccontare proprio una storia, di rendere il più verosimile possibile. Infatti abbiamo aggiunto l'effetto del telefono, si sente l'inizio di questa segreteria telefonica che scatta, l'effetto da cornetta telefonica che poi viene ripresa alla fine, in modo da crearci proprio, di inventarci un qualcosa che in realtà non c'è nel testo, cioè questa persona che telefona a e gli lascia questo messaggio all'amante e gli lascia questo messaggio, e poi fare dei tagli in dei punti ben precisi. Infatti senti la voce, lei a un certo punto che parla di dell'amante, parla del suo silenzio, e in quel momento si ferma la voce e continua soltanto un pezzo, peraltro un cambio della musica. In un altro momento dice, parla di un, non mi ricordo adesso la parola esatta, però di il desiderio di fare qualcosa di che non si può consumare, e proprio lì c'è lo stacco del basso, della svitatina di basso, che dà proprio l'idea di vabbè, a me fa pensare alla sveltina comunque, o al coito interrotto, ok? E nel momento in cui si parla di le urla del prete, della gente, dei poliziotti verso la coppia di amanti, c'è la parte dell'assolo. E questa è la parte più bella per me del lavoro, il cercare di farci rientrare tutto. E mi sono reso conto che la maggior parte dei gruppi, non tutti, però la maggior parte dei gruppi, anzi che tutti i gruppi si sono, a mia personalissima interpretazione, si sono ritrovati a fare questa scelta tra il creare l'atmosfera e il crearci invece qualcosa di più, tipo gli Desperate Living mi sembrano fatto qualcosa di più vicino a come l'abbiamo interpretato noi, invece per esempio i Kalashnikov ci hanno creato un'atmosfera sotto, e forse la maggior parte ci hanno creato poi sotto delle atmosfere, però insomma è bello vedere che non siamo stati gli unici a pensare quest'altra possibilità. E penso sia anche la cosa bella del disco, che dà questa varietà. Poi la cosa particolare è che la playlist non esiste, perché non avete deciso voi una playlist, perché c'erano i desideri dall'1 al 15, sì, infatti, e quindi andavano così, e avete avuto culo, perché la playlist è un'arte, la playlist, la in playlist un, è un'arte, cioè un nostro disco, i momenti passati, sbagli la playlist, va a fondo il disco. Sì, sì, sì, assolutamente. Il nostro disco, il nostro secondo disco 3, ha ingranato molto lentamente, perché abbiamo toppato il primo pezzo, perché è un pezzo moscetto, molto pop punk, mentre quelli più energici stanno alla fine, e vedevi le recensioni, che erano recensioni basate sul primo pezzo. Ma così, beh, per fare un esempio vissuto personale, ma se toppi la playlist, e invece voi avete culo, perché avete avuto una playlist che funziona. Sì, questo diciamo che è stato un po' una cosa su cui abbiamo anche un po' discusso, cioè avevamo un po' di perplessità, a parte le perplessità iniziali, da quando abbiamo coinvolto tutte queste persone, diciamo, oddio, verrà, ma che fuori, cazzo ci fate, fa solo verrà già fuori una cosa, no, la fuori perplessità con l'L maiuscola, dei pezzi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, una cosa terribile così. E poi ci siamo anche chiesti, forse dovremmo cambiare l'ordine dei desideri, almeno nel CD, per dare, non so, poi un'idea che nemmeno noi avevamo. E invece poi alla fine l'abbiamo sentiti così, quando abbiamo preso il master, l'abbiamo sentiti così uno dopo l'altro, andavano benissimo. Infatti sì, abbiamo avuto culo. Quindi voi avete sentito i pezzi al lavoro finito, praticamente. Allora... perché questo no, noi abbiamo chiesto inizialmente ai gruppi coinvolti di farci avere una sorta di promo, di demo, magari che, registrato anche in saletta. Che io, cioè, quando io volevo mandare il nostro promo, perché il nostro promo è stato, siamo entrati in sala prova, abbiamo preso un registratorino, cioè, che insomma, ti lasci immaginare, portatile. Sì. Poi abbiamo preso la voce e ci abbiamo schiaffata sopra, perché non avevamo tempo di fare altro. Ma guarda, no, noi serviamo. E glielo abbiamo mandato, e infatti lui poi mi disse, Giulio mi disse, quando sentì il pezzo, c'ero rimasto un po' male. Perché mi sembrava, non mi ha detto una merda, ma quasi. No, no, però no. Poi lui stesso ha detto, no, però poi invece sentendo. Sembrava appunto che ci fosse stata incollata sopra la voce. Beh, no, così c'era stata, era stata presa copia e incolla. No, però diciamo, a noi è servito più che altro per vedere intanto la durata effettiva del disco, e poi per farci anche un minimo un'idea di quello che stava venendo fuori, anche perché in realtà una buona parte dei gruppi coinvolti che facevano, cioè che normalmente fanno diciamo hardcore in maniera generica, sì, o punk rock, poi invece qui hanno fatto delle musiche molto molto diverse, quindi volevamo dare diciamo anche un minimo d'ascolto per renderci conto di quello che stava venendo fuori, nel senso appunto se erano solamente percussioni e trapani, oppure se tutto ambient, oppure se crust, e quindi insomma, cioè, capire un attimo che cosa. E invece, ecco, questo è stato un altro aspetto molto molto interessante, cioè la cosa si è costruita mano a mano da sola, e ogni pezzo è andato da solo al proprio posto, e questa è appunto, cioè c'è stata un po' bello. Un come? Questo è bello. Sì, questo è bello. No, abbiamo avuto anche riscontri positivi da persone che conoscevano noi, erano convinti, cioè non sapendo molto dei gruppi, dicevano sarà un insieme di musicacce punk, hardcore, sì, e basta, sì, invece poi l'hanno sentito e sono rimasti insomma. Siete piacevolmente sorpresi, quindi siete degli intellettuali, dei maledetti balordi e bavosi intellettuali. Intellettuali. È vero, è vero. quindi sono rimasti soddisfatti anche chi non ascolta solo punk. Stacchiamo che devo andare a casa a leggere il dizionario. Anzi, secondo me ci sono pochi, troppo pochi pezzi punk. No, ma va bene così. Cioè, l'idea appunto era proprio quella di dire, ok, questa gente, cioè, punk hardcore, chiamatelo come vi pare, non è solamente musica, no? It's more than music, e questo certo. È il discorso. Cioè, alla fine puoi stare lì con una tastierina, ripete sempre lo stesso suono, oppure appunto puoi fare il classico tupa, però, cioè... Rimane lì. Sì, è tutto quello che c'è dietro. Hanno chiesto a dei gruppi punk hardcore di, per favore, non fate canzoni punk hardcore. Ti prego, solo questa volta. Siete gli unici che non ci chiederanno dei soldi, dei compensi, però non fate punk hardcore. Ma com'è lavorare su una cosa già edita? Cioè, o meglio, dare un suono, perché io stavo riflettendo sul fatto che prima dicevi che avete studiato bene il racconto per tagliarlo, e quindi c'è stato comunque un lavoro in studio abbastanza grosso, o l'avete fatto prima da soli, cioè, o meglio, avete fatto idealmente, quindi pensate, oppure... Allora, l'ho fatto io, tutto quanto, e ce l'avevo tutto in testa, e tanto che è arrivato allo studio, alla fase di registrazione, e il mio chitarrista pensava che fossi matto, perché al fonico che ci registrava dice: ok, fermati qui, ok, togli due secondi di voce qua, ok, qua mandala un po' più avanti, ok, qua lascia uno spazio. E lì per lì mi sentivo gli occhi addosso, tipo, vabbè, non si può fare in radio, non si può mimare lo sguardo, questa. Okay. Sentite gli sguardi tipo questi. Rotto il microfono. Il suono della perplessità. E poi, però, appunto, hanno visto che quadrava. E guarda, non è stato facile, però è stato bello. Ci ho preso gusto. Infatti, sto continuando a farlo per altre persone. Cioè, scrivere. In questo caso, scrivere testi per delle musiche di altri. Va bene, allora noi ascoltiamo un altro pezzo di un altro gruppo italiano, visto che ci avviamo alla fine. I Bava Miracolosa? No, i Gerd. I Gerd. Pensavo i Bava Miracolosa. Vedersi. Allora, stavamo parlando del Cepu. Visto sì, prima diciamo, no, intellettuali, Cepu. Sì, sì. Livello. Allora, vogliamo concludere il discorso per bene. Sì, infatti siamo in chiusura, grazie mille, grazie soprattutto a te, insomma, ci ha dato questo spazio. È stato un piacere. Appunto il dito, noi ci siamo presi. Ma queste sviolinate che poi sembra che le stiamo facendo apposta. Lasciamo perdere, sì, no. Poi ce le diciamo tra noi a microfoni spenti. Ok, dopo. E io volevo salutare poi anche... No, adesso c'è l'elenco, magari è un po' lungo, ci tenevamo a magari rapidamente però a salutare, a nominare le varie realtà che hanno partecipato, a partire dai gruppi che sono stati Lato 2, Kalashnikov, Filippo Panichi, CPMC, Cose Perse, Small World Problem, Emanuela Cavallaro, Blood 77, vedi la pronuncia, Slask, Truculent Boy, Desperate Living, Autogun Crena, Scarwell, Compound Dead, Muta Killer Foundation, mentre gli illustratori sono stati Gupi, Rocco Lombardi, Elena Visentin, Roberto Forconi, Claudio Calia, Marco Deodorani, Manuela Santoni, Simone Luccio, Lana Dir Savarino, Officina Infernale, Alberto Corradi, Marco Castagnetto, Nanda Diletta, Marautilio, Mark About e Gian Nicola Maestro che ha fatto la cover. Poi noi, ecco, ringraziamo tutte quante le persone che ci hanno dato una mano nei vari aspetti della realizzazione e soprattutto le etichette che non si sono limitate a mettere due soldi e basta, ma che insomma hanno seguito la cosa e adesso si stanno sbattendo per cercare di organizzare delle presentazioni o comunque degli incontri anche qui abbastanza, diciamo, sperimentali, nel senso che vista la cosa e vista la tipologia di progetto, insomma, è tutto piuttosto aperto. Oltre a noi, sì, le etichette Cut Up, Alda Teodorani, come dicevamo prima, Bile Produzioni, Emera, Gusto Rana, Kalashnikov Collective, Lamette, Lanterna Pirata, Produzioni Sospette, Radio Riot, Scorse Produzioni, Sincope, The South Face, A Name Zin, Utu Conspiracy, Luck Record, Zass Rec e Punk for Free. E noi ci tenevamo un attimo magari a salutare in particolare Gupi e Produzioni Sospette, che diciamo hanno un momento non particolarmente felice. Resistete per quanto possibile, resistete. Dove, come è possibile? Perché grazie mille, è il punto fondamentale. Chiacchiera, te scordi proprio le cose più importanti. No, allora c'è un sito che è www.15desideri.com, c'è anche una pagina MySpace dove poter sentire un estratto di tutte e 15 le tracce. Per le illustrazioni ci stiamo organizzando. E c'è anche una pagina Facebook. Però fondamentalmente se andate su www.15desideri.com trovate tutte quante le informazioni. C'è un'ordina vista tipo di progetto, appunto autoprodotto, libro più CD più cartolina dentro. Ecco, prima ci siamo scordati, cioè in ogni copia una cartolina random con una delle 16 illustrazioni. Il tutto, non è che è random la cartolina, che ce la trovate o no, ce la trovate in ogni... La cartolina c'è, poi quello che c'è dentro lo compri. Se sei fortunato hai la cartolina, se sei fortunato, questo per un po', forse anche un po' presa in giro, no, di ste robe da feticisti, copie limitate, roba del genere. E a caso abbiamo inserito 15 libretti autografati da Alda con una dedica, a caso, non sappiamo nemmeno noi dove stanno, quindi probabilmente questo tanto. Sì, perché scusate, l'ultima una cosa al, certo, volo, perché comunque noi ce li siamo confezionati noi ogni copia, se cioè copertina con Alda, quindi metti il CD, metti la copertina, metti il libretto, cioè abbiamo questa bella idea di fargli autografare 15 copie proprio lì quando le stavamo confezionando. Chi li in italiano? Che? La dedica? Tradotta poi dai vari traduttori nelle tre lingue. No, non è vero. No. Era serio, è semplicemente la sua firma con un saluto. Comunque penso in italiano, sì. E quindi se stai in Germania, in Inghilterra o... Vedrà in solo uno scarabocchio con scritto... Ehi, questa copia è rovinata, che cazzo! E quindi niente, www.15desideri.com. Non verrà a costare più di 10 euro. Se poi state in zona Roma e dintorni, oppure nelle zone dei vari coproduttori, riuscite a prenderla appunto brevi mano e vi evitate lo strozzinaggio delle poste, se si può dire così. Sì, si può dire così, sì. si può dire solo strozzinaggio. Allora, www.15desiderei.com, quindi andate, spulciate un po' il tutto e magari e magari date una mano. Ah, sì, ok. Allora io devo fare l'estremo saluto. Fai l'estremo saluto, poi lo faccio io. Okay, cioè, l'estremo saluto lo fai a voce. Prima, lo faccio a voce. Cioè, ma che devo fare? Devo salutare? Allora, volevo salutare. No, vabbè. Allora. Sì, mi hanno chiesto di fare un pezzo. Farò Inverno per salutarvi tutti quanti. Un pezzo in suono dal 1997. Quindi, se mi viene male, la responsabilità è di Gabriele di Deny Everything, via dell'Acqua Acetosa numero 47. Perfetto. Ok, allora io ringrazio i ragazzi che sono stati. Grazie a te. Ospiti. Grazie, ciao. Grazie. Ringrazio Flavio delle Cose Perse. Ringrazio la microfonista. Ringrazio anche Deny Everything, così ho anche imparato. Che io poi mi chiedo, Danny, ma chi sarà questo Danny? Cioè, non ho pensato assolutamente, stronzissimo io, no, vabbè, no, ma non è che stronzo io, assolutamente. Io vi ricordo, voi che siete in ascolto, l'ultima puntata di questa stagione di Radio Noise, lunedì 4 luglio, con anche ospiti, perché dobbiamo chiudere in bellezza, sarà una puntata probabilmente fondamentalmente alcolica, con volumi molto alti e musica classica, come dico sempre. E vi lascio quindi per questa puntata con un ultimo pezzo acustico, Inverno delle Cose Perse. Davanti una finestra di cama, digi passaggi, fuori inverno come dentro, dentro il mio cuore, fuori è freddo come dentro, dentro il mio corpo stagioni e attimi, e come fulmini, passività, i giochi subiti, non ho più voglie per cercarmi dentro, non ho più storie per rischiare ancora, forse temo quel che sento, forse esprimo solo nel mio lamento, azioni perse nella neve congelate al passo del mio giorno, forse è giusto, qua giù in fondo. Forse è giusto in fondo solo nelle tue strade e nel mondo mi sembravano proprio le mie. Passo ancora un altro bisbiglio, il volume della vita che mi sta attorno, dentro fa freddo ma non ho paura, mi riscaldo al fuoco del mio